2 giorni fa ci siamo fermati, ma più o meno a parlare a Balizzi. Ma diciamo che sì, diciamo che siamo fermi a significato e significato. Allora, no, fino adesso l'unica cosa che abbiamo più o meno messo, a fuoco è la questione, spero che sia messa a fuoco, però se c'è qualcosa che dovete chiedere mi chiedetela, la differenza tra Lang e parola. Allora, adesso abbiamo una vaga idea di cosa sia la Lang e di cosa sia la parola. Allora, cominciamo quindi lo studio, più o meno, insomma, dei concetti fondamentali della Lang. Il sistema, ciò che è studiabile, ciò che è possibile studiare secondo Saussure in maniera scientifica, perché Saussure vuole costruire una teoria scientifica della lingua, del linguaggio, l'unica dimensione che si può studiare scientificamente è quella della Lang, non quella della parola. Questo dovrebbe essere già chiaro, se non è chiaro lo ridiciamo adesso. Dopodiché io vi ho enunciato una serie di se non trovo gli occhiali è dura, non riuscirò ad enunciare più nulla se non ad enunciare, più nulla se non ciò che sta già nella mia mente, non ciò che sta in questo libro, non sarei riuscito a trasferirlo dalla mia mente alla... Allora, il testo, cioè il libro che stiamo seguendo, allora, ho pensato quest'anno che per la prima volta leggerò alcuni passi di Théâtre de Saussure, per le ragioni che vi ho spiegato la volta scorsa, perché siccome il libro non è stato scritto da lui, ma è stato scritto dai suoi 2 allievi, eccetera, e allora, da un punto di vista specifico, grosso modo ci siamo, cioè le cose che sono scritte non sono tanto diverse, sono cose che lui ha effettivamente detto nelle sue lezioni. Però la struttura del libro, la struttura dei concetti, eccetera, a volte può creare qualche equivoco, specialmente se viene raccontata. E quindi è meglio andare a vedere, siccome poi l'edizione che segue, quella commentata da un grande linguista italiano che è Tullio De Mauro, in cui ci sono delle note, eccetera, e spiega sempre quando c'è qualche passaggio che non è chiaro, quindi magari a volte leggeremo anche le note di Tullio De Mauro. Comunque, insomma, il libro, il corso di linguistica generale è diviso in 5 parti. La prima parte, chiamata Principi generali, grosso modo è quella di cui... no, ho sbagliato tutto. L'introduzione, che è quella su cui mi sono intrattenuto sinora, è quella che... espone più o meno alcune delle cose che vi ho esposto nelle volte scorse prima io, poi c'è una parte sulla fonologia che però non faremo, vi dirò solo, c'è un'appendice sulla fonologia, adesso partiamo dalla parte prima, che sono i principi generali. Il primo capitolo è abbastanza breve, sono poche pagine, e dice natura del segno linguistico. E quindi vale la pena leggere questo. Vale la pena leggere. Ci sono anche delle figurine che però non posso farvi. Allora, e siccome comincia che entra subito nella cosa, è meglio far parlare lui, insomma. Capitolo primo, natura del segno linguistico. Paragrafo primo, segno, significato, significante. Per certe persone la lingua, ricondotta al suo principio essenziale, è una nomenclatura, vale a dire una lista di termini corrispondenti ad altrettante cose. E gli esempi che fa sono due, con due disegnini, con due parole, una latina e l'altra pseudo-latina, ma insomma. C'è il disegnino di un albero e vicino la parola arbor, parola latina per albero. Poi c'è un cavallo e vicino la parola equus. Equus non è... una parola latina classica, una parola latina tarda, più o meno dell'inizio del Medioevo, nella latina classica sarebbe equus con 2 u, vabbè, sono ovviamente questa. Allora dice, rileggiamo la frase, per certe persone la lingua, ricondotta al suo principio essenziale, è una nomenclatura. Adesso noi in realtà usiamo il termine nomenclatura in italiano per indicare altre cose. Nomenclatura per noi vuol dire l'elenco dei dirigenti politici di un certo paese, nomenclatura politica, ma nomenclatura da un punto di vista originario vuol dire semplicemente una lista di parole, di nomi, nomen, nomenclatura, associata a cose, no? Dice bene, la lingua è per molte persone un'associazione tra parole e cose, per esempio c'è una cosa chiamata che ha quel certo aspetto, io in latino la chiamo arbor, in italiano albero, in inglese tree, in tedesco baum, in francese arbor, in iraniano come si chiama questa cosa in iraniano? Deracht. Come si chiama? Deracht. Deracht. Beh, bellissimo il suono è il più, finora diciamo, diamo la palma all'iraniano dal punto di vista della musicalità sul termine che sta per albero, è la cosa migliore che abbiamo sentito oggi. È chiaro, ogni lingua ha un suono. Cioè, e qui c'è il cavallo, questo invece sarebbe? Asp. Asp, con una P finale? Asp. Asp. Asp. Allora, voi sareste soddisfatti di una concezione del genere del linguaggio? Vedo i sorrisi, vedo che qualcuno ha capito che questo potrebbe essere un trabocchetto. Comunque, se noi anche fossimo soddisfatti, non lo è il signor Fernandez Saussure, non lo era il signor Fernandez Saussure, il quale infatti subito dopo dice: questa concezione è criticabile per molti aspetti. Criticabile per molti aspetti. Essa suppone delle idee già fatte preesistenti alle parole. Essa suppone che esistano delle idee che sono già fatte e che preesistono alle parole. Io ho già l'idea di albero. Poi qualcuno mi dice, sta roba si chiama albero. Ah, grazie, faccio io. Molto gentile, si chiama albero, bene. Se è in tedesco si chiama Baum. Ah, interessante, si chiama Baum, grazie. Ovviamente tutto parlato in tedesco, cosa che non ho voglia di fare adesso, non so, anche che non sono in grado. Questa cosa già per Saussure è criticabile. Che cosa, quindi se è criticabile questa cosa, che cosa si suppone? Si suppone che non esistano idee o concetti preesistenti alle parole che li nominano, ma che probabilmente parole e concetti nascono quantomeno contemporaneamente, che non è possibile avere un concetto se non ho una parola che lo espone, quindi che non è che il linguaggio è un a posteriori rispetto all'attività mentale, ma che è almeno uno dei componenti che la costituiscono, quindi non è possibile avere una concezione così meccanica del linguaggio, che il linguaggio esprima delle cose che sono già formate nella nostra testa. Probabilmente non c'è nulla di formato nella nostra testa che non sia linguistico. Quindi questa concezione suppone delle idee già fatte preesistenti alle parole. E poi non ci dice se il nome è di natura vocale o psichica. Non ci dice se il nome è di natura vocale, cioè se è un suono, o se è il risultato di un'attività psichica, perché arbor, per esempio, il nome latino di albero, può essere considerato sotto l'uno o sotto l'altro aspetto, può essere sia di tipo vocale, certo, è una produzione, dico albero, sono una serie di suoni, però mentre dico albero, è difficile capire, forse non ho un albero specifico in testa, ma mi si forma qualcosa in testa, poi vedremo come la chiama, Saussure, che corrisponde vagamente a una, chiamiamola nozione, non vogliamo scomodare il termine concetto che ci sembra troppo complicato, una nozione di albero, quindi una parola si porta dietro immediatamente una certa nozione, però contemporaneamente è anche una parola, cioè anche un insieme di suoni, quindi che natura ha questo nome? Ha una natura vocale, una natura psichica, si chiede. Questa concezione ingenua del linguaggio non ce lo dice. Infine, lascia supporre che il legame che unisce un nome a una cosa sia un'operazione del tutto semplice, ciò che è assai lontano dall'essere vero. Allora, primo, la concezione ingenua del linguaggio suppone che le idee, i concetti, le nozioni preesistano alle parole, vengano prima delle parole. non è soddisfacente. Secondo, non ci dice se il nome è di natura vocale o psichica, se è una produzione di suoni o una produzione mentale, o tutti e due, o come sono legate. Terzo, il legame che unisce un nome a una cosa, il nome albero all'oggetto albero, il nome cavallo all'oggetto cavallo, ci pare di natura semplice, mentre non è così, mentre non è semplice. Aggiunge Saussure, tuttavia questa visione semplicistica può avvicinarci alla verità, mostrandoci che l'unità linguistica è una cosa doppia, fatta dell'accostamento di due termini. Sono due termini che sono accoppiati, questo è vero. Anche se noi però... Allora, c'è dietro a questa frase che dice prima, inoltre questa concezione lascia supporre che il legame che unisce un nome a una cosa sia un'operazione del tutto semplice, ciò che è assai lontano dall'essere vero. Poi dice, però in questa semplicità si può ricavare qualcosa di buono, qualcosa di utile, e cioè il fatto che questa semplicità mette in luce il fatto che questa unità linguistica è una cosa doppia, cioè sicuramente due componenti, questo possiamo dirlo. Questa idea che a noi appaiano semplici delle operazioni che non lo sono, non è una cosa tipica, non è una cosa, diciamo, limitata alle contrazioni linguistiche, non la ritroviamo solo nel linguaggio, la ritroviamo in quasi tutte le nostre operazioni cognitive. Già il termine che ho usato, operazioni cognitive, dice ma parla come mangi, io mi solito, probabilmente io mangio così, quindi non so cosa faccio, mangio cognizioni. Quindi, voglio dire, noi siamo abituati che le nostre attività più immediate, le consideriamo semplici, automatiche, tipo parlare è una delle cose che... ma anche camminare ci pare una cosa normalissima, siamo capaci tutti di camminare, cioè se abbiamo le gambe, se... in realtà sia camminare che parlare sono operazioni complicatissime, non semplici, complicatissime, per le quali grosso modo ho scelto non a caso l'esempio del camminare, perché ci vuole grosso modo lo stesso periodo di tempo per un cucciolo della razza Homo sapiens, lo stesso periodo di tempo per imparare a parlare e per imparare a camminare, grosso modo. Ci vuole un anno, ci vuole il primo anno di vita, a mangiare no, mangiare si impara più rapidamente, ma succhia, cioè o la tetta di mamma o una tetra di plastica, ma sono qualcosa a succhiare. Poi quando cominciano ad avere i denti, è più semplice mangiare, è più semplice. Ma camminare non è così semplice, è vero? Il bambino non nasce, non sa camminare, Ricordate Bambi, avete visto Bambi di Walt Disney? Ve lo ricordate o no? Ecco. Quanto tempo ci mette Bambi a imparare a camminare nel film? Vabbè, il film, ok. Tre secondi. Scivola da una parte, scivola dall'altra, sotto la pancia di mamma, e la scena è bellissima, no? Bellissima. Strappalacrime come tutto il film, ma cosa dobbiamo farci? siamo vittime di questo sentimentalismo nazista. Disney era nazista, sapete, era simpatizzante dei nazisti, però amava molto gli animali, come tutti i nazisti, ha sempre amato gli animali. Non amavano alcuni esseri umani un po' particolari, tipo ebrei, eccetera, però amavano molto gli animali che depone a loro cose. Bene, adesso a parte è un film, però diciamo rispecchia una cosa diciamo reale, tutte le specie di mammiferi imparano a camminare molto rapidamente e per i fatti loro, non hanno bisogno di nessuno, cioè non è che la mamma, se non vado errato, se non mi ricordo male, la mamma di Bambi gli dà due musate, per dire sotto il culo, per dire vai, tirati su, vai, però poi Bambi impara subito, insomma, no? Non c'è, e tutti gli animali imparano così. anche il gorillino e lo scimpanzino e l'orangutanino imparano a camminare più rapidamente di noi, più rapidamente di essere umani. Noi siamo animali, si dice, neotenici, neotenia, abbiamo un allungamento della quasi della vita nell'utero, insomma, quasi nella vita interna al corpo della madre, viene prolungato nei primi tempi in cui usciamo fuori. Abbiamo una lunga, questo si chiama, cioè, fra le cose neoteniche nell'uomo, in Homo sapiens ci sta questa pratica, questo modo di stare a lungo senza saper camminare, quindi ci vuole, e saper camminare, saper parlare. Saper camminare implica il coordinamento di una quantità di muscoli terribile, nessun equilibrio, la stazione retta, sì, noi siamo animali a stazione retta, ma non nasciamo con la stazione retta, cazzo. Il Bambi nasce a quattro zampe e vive a quattro zampe, no? Fin da qui poi imparerà a camminare, chiuso. Noi invece nasciamo a quattro zampe e impariamo a stare su due, impariamo perché abbiamo il corpo fatto apposta per stare su due, ma dobbiamo impararlo. È qualche cosa che il nostro corpo deve imparare. Così, analogamente, nasciamo tutti con la capacità di parlare, con la facoltà di parlare, con la possibilità, abbiamo la possibilità, però dobbiamo imparare a farlo. Non è che nasciamo e parliamo, non facciamo come Gesù Cristo che a 12 anni va e discute di teologia ebraica, poi complicatissima, nel tempio dei Salvini. Chi è questo? Ma dove esce? Chi l'ha uscito? Questo? Bisogna imparare, ci vuole un addestramento per... Una volta che abbiamo finito questo addestramento, noi però ci dimentichiamo facilmente dei cazzi acidi che abbiamo dovuto attraversare per imparare a fare quella cosa. Delle volte che siamo scivolati, cascati per terra, io cascavo sempre col naso, non mettevo mai le mani avanti perché ero deficiente, come probabilmente sono rimasto per tutta la vita, e quindi mi è venuto un naso grosso, quindi lo sbattevo per terra. Però tutti i bambini cadono prima di imparare a camminare, insomma. Però ce lo dimentichiamo, non sapevo. E quindi adesso che camminiamo normalmente, camminare ci pare la cosa più naturale del mondo. Adesso che parliamo, parlare ci sembra la cosa più naturale. Parlare non è naturale. Non è naturale. È naturale, è ovvio, corrisponde a delle potenzialità che noi abbiamo, ma non è automatico, non è così. Si parla. Per parlare bisogna essere stati lì, essere rotti i coglioni per un anno a sentire papà, mamma, tutti quelli grandi che parlano, dicono puttanate, robe, da questo materiale linguistico ricostruire, fare un'attività il nostro cervello quando siamo bambini, lavora molto più di quello, perché è più rapido, è più giovane, è più, non muoiono neuroni, cioè una vita meravigliosa, il neurone è felice, cioè, oh, che bello finalmente, perché non sa nulla, cioè sa poco, gli innatisti suppongono che sappia già sin troppo, questi però sono gli innatisti, i poveri empiristi come Locke, Hume e come me pensano che il cervello sappia pochino, ha molte potenzialità, certo, è predisposto a una cablatura, a un rapporto col mondo, evidentemente se non sarà, però sa ben poco, insomma, quindi è contentissimo, si divertono i nostri neuroni e noi anche da piccoli, adesso non ce ne... ci dimentichiamo, ci siamo dimenticati probabilmente, ma deve essere un periodo divertentissimo della vita, almeno io penso così adesso, poi non so, forse mi sbaglio. Quando abbiamo da zero a un anno non sappiamo nulla, impariamo tutto del mondo e impariamo alcune robe fondamentali, ripeto, arraffare la tetta di mamma è più semplice, cioè non ci vuole tanto, ma ripeto, camminare, parlare, muoversi, relazionarsi, capire, praticare il rapporto con gli altri esseri umani, questo tutti i primati lo fanno, non solo noi. Però noi però una volta fatto ci appare normale, ci appare naturale. Qui sta la radice di questa frase, infine lascia supporre che il legame che unisce un nome a una cosa sia un'operazione del tutto semplice. ciò che è assai lontano dall'essere vero. Io ci ho messo 20 minuti per spiegare, per dire quello che Saussure, che era più conciso di me, evidentemente ci mette qualche secondo. Però vedete poi lui cosa dice. Dice, però attenzione, dentro a questa cosa non è vero che sia così semplice parlare, però guardate che c'è una roba vera che ci dice anche questa concezione semplicistica. Possiamo almeno ricavare questa cosa, questa idea, questa nozione che invece è giusta, e cioè che il linguaggio sia fatto di due componenti differenti che in qualche maniera si uniscono. Si è visto precedentemente, quindi nella parte che vi ho fatto senza leggervela, ma che vi ho esposto prima, si è visto a pagina 21, a proposito del circuito della parole, che i termini implicati nel segno linguistico sono entrambi psichici. Mai sottolineerò a sufficienza questa cosa. I due componenti che insieme costituiscono il segno linguistico sono entrambi psichici. Non uno è psichico e l'altro è materiale, non uno fa parte del mondo e l'altro fa parte del... No, fanno parte tutti e due dell'attività mentale, sono entrambi psichici e uniti nel nostro cervello dal legame dell'associazione. Insistiamo su questo punto. Il segno linguistico unisce non una cosa e un nome, il segno linguistico non unisce una cosa e un nome, questo lo pensano i materialisti stupidi, ma un concetto e un'immagine acustica. Oh, siamo arrivati. Un concetto e un'immagine acustica. Arbor, questo è un concetto, cioè questa è la visualizzazione di un concetto. Ognuno è diverso, ognuno di noi ha un albero diverso in testa, o tanti alberi, però ci possiamo capire, vagamente ci possiamo capire, perché grosso modo se parliamo la stessa lingua chiamiamo quel concetto, per quanto diverso sia nella nostra mente, con lo stesso nome, ma è un concetto, un concetto. A questo concetto è associato non un nome, il nome, chiamarlo nome, chiamare albero un nome è una roba superficiale, non è un nome albero. Cos'è albero? Sono un insieme di suoni. A, L, B, E, R, O, che di fila in italiano fanno albero. In inglese T, A, I, sono tre suoni soli. Tree, In iraniano ripetilo. Terakht. Terakht. Distingui i suoni? Non è alfabetico. No, sì, li sa distinguere i suoni. Distingui i suoni che fanno parte di questa parola. C'è un D, D, Re, Che, Che. C'è una T finale, vedi? Che io prima l'ho scambiato per P, come un coglione. Allora, questa, in qualunque lingua non lo diciamo, c'è una sequenza di suoni, è un'immagine acustica. La scrittura, sì, la scrittura è, credo, è fonetica, non è fonetica. In ogni lingua c'è un insieme di suoni, questo insieme di suoni forma quello che Saussure chiama un'immagine. Cosa vuol dire immagine acustica? Attenzione, perché sembra un controsenso, sembra un ossimoro. In realtà non è immagine in senso generale, immagine è qualunque contenuto, qualunque cosa che stia nella mia mente, che faccia parte della mia attività, diciamo, mentale. Attenzione, perché è equivoco dire che albero è un nome, dire che con più degli occhiali è un nome, che penna biro è un nome, che libro è un nome, che registratore è un nome? Perché è ambiguo? Perché presuppone quello che invece deve essere spiegato, cioè che rapporto, perché c'è un certo rapporto tra quella sequenza di suoni e questo oggetto, carta, voi pensate, voi a quante parole, a quanti nomi potete associare questo oggetto? Potete dire foglio, potete dire carta, potete dire scritto, potete dire... E capite che... Allora, che senso ha dire, ah, qui c'è una relazione tra un oggetto e un nome? Non c'è mai nel linguaggio una relazione tra un oggetto e un nome. C'è una relazione tra un concetto e un'immagine acustica. Ma l'immagine acustica può essere anche più di una. Come per una stessa immagine acustica ci può essere più di un concetto, più di una... cioè non è, quello che mi sono sforzato di dirvi l'altra volta, non c'è una relazione più univoca tra parole e cose. Se fosse così semplice, il linguaggio non ci sarebbe bisogno né di spiegarlo, né di un cazzo, sarebbe... non potremmo però fare nulla delle cose così divertenti che facciamo con il linguaggio, non potremmo scrivere poesie, non potremmo scrivere testi di critica, non potremmo scrivere sceneggiature di film, non potremmo recitare commedie o tragedie, non potremmo fare nulla delle cose che facciamo con il linguaggio. Tutte le cose che noi facciamo con il linguaggio le facciamo perché c'è una discrasia, perché c'è una separazione, perché c'è una situazione complicata, complessa. Non, ripeto, se noi diciamo che il linguaggio è una nomenclatura, non abbiamo capito nulla del linguaggio. L'abbiamo ridotto alla sua apparenza più banale, più stupida, più... E quindi poi questa cosa ci impedisce di andare avanti, ci impedisce di analizzare davvero dove sta. Poi scopriremo dopo un'ora che non è magari così complicato come noi pensavamo, però... All'inizio dobbiamo accettare con umiltà e con comprensione, anche questo carattere complicato. Dobbiamo accettare di complicarci un po' la vita per renderla più semplice dopo. Perché se noi ce la rendiamo semplice troppo presto, la vita, non impareremo mai né a camminare né a parlare. Per fortuna sono due cose, camminare e parlare, che l'insieme del nostro corpo impara per i fatti suoi, senza chiedere il permesso alla nostra coscienza. Che in effetti nel primo anno di vita probabilmente non è neanche, per fortuna, così tanto sviluppata, e quindi evita di romperci i coglioni come ci romperà poi per tutta gli anni della vita successiva. Per questo voi tutti sapete che una delle funzioni fondamentali, non l'unica, ma della coscienza, quella di romperci le scatole, è quella di metterci dei bastoni tra i piedi e tra le ruote per tentare di impedirci di fare quello che noi vorremmo fare. Che non è sempre che dobbiamo fare per forza così, però insomma, in gran parte è questo. Ci siamo spiegati, cioè abbiamo cominciato a capire, non voglio dire che, perché ci sono molte cose, però primo, il linguaggio non è una nomenclatura, non è un semplice rapporto tra parole e cose. Dire che il linguaggio è un insieme di rapporti tra parole e cose è limitativo, è peggio, cioè, perché ci impedisce di capire che cosa sia il linguaggio. Quindi il segno linguistico unisce non una cosa e un nome, ma un concetto e un'immagine acustica. Attenzione, immagine acustica, non mi sono spiegato bene ancora neanche io, vediamo, perché lui cioè, quest'ultima non è il suono materiale. Io prima ho fatto questo esempio, attenzione, non è proprio il suono materiale, non è solo l'insieme dei soggettivi, ma la traccia psichica di questo suono, la traccia psichica di questo suono, albero, l'immagine acustica, non si intende con immagine acustica l'insieme dei cinque suoni A, L, B, E, R, O, che formano la parola italiana albero, ma la traccia che questo insieme di suoni lascia nella nostra mente. Che non è esattamente il concetto. Il concetto implica una qualche visualizzazione di un oggetto vagamente preso per rappresentante di una categoria di oggetti che noi chiamiamo albero. Albero, è chiaro che c'è una connessione tra la traccia psichica dell'insieme dei suoni e quel, diciamo, concetto, ma non sono esattamente la stessa cosa, C'è una relazione che la nostra mente forma, adesso poi vedremo. Quindi l'immagine acustica non è il suono materiale, che è una cosa puramente fisica, ma la traccia psichica di questo suono, la rappresentazione che ci viene data della testimonianza dei nostri sensi. Io vedo un certo oggetto, ho imparato, perché nella comunità in cui vivo vedo che tutti lo chiamano albero, e a questo punto, dopo un po', è semplice, associo quell'oggetto che vedo lì e il concetto che io me ne sono, non quell'oggetto specifico, ma il concetto che io me ne sono fatto, quindi eventualmente posso dire la categoria di oggetti generalmente, lo associo con una certa immagine acustica, cioè con l'effetto sulla mia psiche fatto dall'insieme di quei cinque suoni, nel caso della parola italiana albero. Essa rappresentazione, la rappresentazione che si ha dentro di me della testimonianza dei sensi quando vedo l'oggetto albero, è sensoriale, cioè ha a che fare con i sensi, perché collega una cosa che in genere vedo, ma che posso anche toccare, che posso anche annusare, che posso, cioè, sensoriale in genere, la collego con una immagine acustica, cioè con qualche cosa, con una traccia che nella mia mente rimane di un insieme di suoni. Essa è sensoriale, e se ci capita di chiamarla materiale, se si va, diciamo una rappresentazione materiale, perché la chiamo materiale? Ciò avviene solo in tale senso, cioè nel senso che è sensoriale, e in opposizione all'altro termine dell'associazione, il concetto, che generalmente è più astratto. Quindi è ovvio che tra le due cose il concetto è più astratto, perché è ciò che io ho ricavato da un insieme di oggetti che più o meno considero simili, o in cui considero che ci sia qualche qualità che li accomuna. Quindi c'è un processo di astrazione. Nel caso dell'immagine acustica c'è sempre una certa astrazione dietro, ma è un'astrazione di cui io sono meno consapevole, perché in realtà è una cosa più materiale, è più legata, è quella sequenza di suoni, è la traccia psichica di quella sequenza di suoni, non ci sono Cristi. La rappresentazione, cioè l'immagine acustica albero è diversa dall'immagine acustica tavolo, è diversa dall'immagine acustica bontà, è diversa dall'immagine acustica lavorare, è diversa da. Cioè sono tutte cose diverse, sono tutte. Quindi insomma, diciamo, ci siamo. Quindi in questo senso l'immagine acustica si considera più, virgolette, materiale, perché è più legata a un'attività sensoriale. Se non mi infilo la stanghetta dell'occhiale nell'occhio, forse è meglio. Il carattere psichico delle nostre immagini acustiche appare bene quando noi osserviamo il nostro linguaggio, quando noi osserviamo il nostro linguaggio. Senza muovere le labbra nella lingua, possiamo parlare tra noi o recitarci mentalmente un pezzo di poesia. Si può fare? Facciamolo. Recitiamoci mentalmente tutti. Qui gli iraniani hanno meno più difficoltà. L'inizio del il primo verso della Divina Commedia. Tu ti reciti il primo verso di un poema epico della tua cultura che noi non conosciamo. Zitti, facciamolo insieme, però tutti insieme. Fatto? Abbiamo parlato? No. Abbiamo fatto una operazione linguistica? Sì. Si può fare linguaggio senza emettere suoni, perché abbiamo già imparato a parlare, sappiamo già cos'è parlare. Ognuno di noi parla nella propria lingua. Tu hai recitato una cosa? Cioè, ce la vedi? No? Fallo, posso farlo a casa? Dopo, fai a casa. Che devo fare? Non so. Cioè, le cose che ci accomunano. Senza muovere le labbra nella lingua, possiamo parlare tra noi o recitarci mentalmente un pezzo di poesia. Per il fatto che le parole della lingua sono per noi immagini acustiche, occorre evitare di parlare dei fonemi di cui sono composte. Allora, qui c'è una diatriba lunghissima. Però bisogna che io introduca alcuni. Possiamo presentare le dosi senza nessuna ostilità verso questo nome, neanche in questa scuola, ma semplicemente ho bisogno di un po' di spazio. Allora, in realtà questa è una parola ambigua in greco, quindi cosa vuol dire un sacco di cose. con la E finale vuol dire assassino, insomma. Phonos in questo modo vuol dire è il suono, no? Allora, dalla parola greca phonos derivano tutta una serie di parole italiane, che una è la serie che deriva da fonetica, fonetico, eccetera, eccetera, cioè generalmente tutto ciò che ha a che fare, beh, non solo con il suono, ma con il suono, diciamo, poi suono in greco vuol dire suono in genere, ma poi nel modo in cui è transitato nelle lingue neolatine, attraverso in realtà il termine latino è insomma diverso, ma poi si è preso dal greco, indica, diciamo, l'ambito che indica è quello del suono articolato, quindi il suono del linguaggio più che non il suono, insomma, dei suoni della natura, cioè un albero che stormisce le fronde, noi non diciamo fonetico, non fa della fonetica, ma noi che parliamo della fonetica. Allora, fonetica è un termine generico, che vuol dire, e poi questo è un termine antico, diciamo, nell'italiano, per dire, cioè, più di recente, cioè è grosso modo non proprio in seguito, ma più o meno contemporaneamente o poco prima del lavoro di Saussure, sono usciti altri due termini, uno prima che è il termine fonema. Tutti questi sono neologismi dal greco, cioè non sono parole che in greco non ci sono, sono state create dopo nelle lingue neolatine, però partendo dal greco. E l'altro è il termine fonologia. Allora, il problema è che devo avvisare che se vi pungesse vaghezza di leggere il libro di Saussure per conto vostro, dovreste fare molta attenzione, perché in realtà Saussure usa i termini fonema e fonologia in maniera totalmente diversa da come li hanno usati i linguisti successivamente, quindi purtroppo bisogna andare con i piedi, siamo lì. Quindi adesso io vi dirò non l'uso saussuriano, di cui ci frega poco, però perché tutte le volte dovremo capire. Allora, la cosa più importante è il termine fonema, ripeto che non è il senso in cui lo uso Saussure, ma vale la pena che lo impariamo un attimo, perché poi se ci capita di leggere anche un articolo, un pezzetto, una frase, eccetera, che parla di fonemi, ne parlerà nel senso che vi dico adesso, non in quello che usa Saussure. I fonemi sono considerati i suoni pertinenti di una lingua, ok? Sono considerati l'insieme dei suoni di una lingua in quanto parte di quel sistema, quindi in quanto differenti da altri suoni. Per esempio, in quasi tutte le lingue che noi conosciamo, i suoni come B, C, D, diciamo, suoni di tipo gutturale o di tipo dentale, sono suoni pertinenti di una lingua, grosso modo, diciamo, possiamo dire, i suoni tipo B, ho detto B, allora suoni dentali, suoni labiali, suoni gutturali, cioè suoni, dipende da dove vengono articolati, dal luogo della loro articolazione e dal luogo della loro, chiamiamola, esplosione. Per fare l'esempio che ho usato l'altra volta, per un cinese, per uno che parla una lingua dell'Estremo Oriente, L e R non sono fonemi distinti. Non so che, non vuol dire che non sono fonemi. In quel sistema linguistico non c'è un'opposizione tra consonanti liquide, L, e consonanti rotative, R. Non c'è. Come per noi non c'è alcuna differenza tra una A, noi in italiano, tra una A lunga e una A breve, tra una E lunga e una E breve, mentre c'era in latino. I latini erano capaci, a orecchio, distinguevano una A lunga e una A breve. In parte gli inglesi sono in grado di distinguere tra una I lunga e una I breve, tra una O lunga e una O breve. Infatti non dicono police, ma dicono police. se tu vai a Londra e gli chiedi dov'è la police station, questi ti sghignazzano in faccia, non ti rispondono perché sono anche un po' caffoni e fanno, lo sanno benissimo, però è vero, cioè tu dici police non ha senso, dice il gruppo, come si chiama il gruppo? Police, ma che cazzo, police, vedete che c'è una differenza tra una O breve e una O lunga. In realtà, siccome non c'è questa opposizione in italiano, la lingua italiana non ha senso, non è non sono due fonemi diversi, O e O, perché noi non abbiamo nessuna parola con O, cioè, tranne chi parla, cioè, tranne quelli che hanno difetti di pronuncia, insomma, senza offesa, per esempio, quelli nati in una certa provincia d'Italia in cui hanno delle vocali, cioè, strettissima, cioè quando parlano per dialetto lì si capisce niente, però non capisce niente chi sta fuori, chi c'è nato, mettendo qualcosa capisce. Ma diciamo nella lingua italiana, quindi il fonema è quel suono, ripeto, pertinente, cioè pertinente vuol dire che è significativo per quel sistema, quindi vuol dire se è significativo, vuol dire se è significativo, vuol dire che si oppone ad altri, che è in opposizione ad altri. Per cui io posso capire quando parlo italiano se dico cane non dico pane, perché c'è una opposizione, c'è una differenza distintiva tra c e p, tra una gutturale e una labiale esplosiva. Allora, questo è il fonema, ok? Allora, ogni lingua ha una sua fonematica, come dire, no? Ha un insieme di fonemi pertinenti, in gran parte molti di questi sono simili, vi ripeto, ci sono tante opposizioni che sono, però ce n'è alcuni che non sono simili, alcuni hanno sette vocali, altri hanno sette suoni vocali, cioè altre lingue ne hanno otto, altre lingue ne hanno 15, altre lingue ne hanno 12, insomma c'è un numero variabile, idem per le consonanti, non però diciamo c'è un nucleo più o meno comune, più o meno da questo punto di vista ogni lingua ha una fonetica diversa e anche una fonematica diversa entro certi limiti. Allora la fonetica di una lingua è semplicemente la descrizione del suo sistema pertinente. La fonematica è uno stadio intermedio, cioè è lo studio dei suoni di quella lingua collegato con alcune caratteristiche. Allora, è possibile in qualche maniera trovare un sistema di proprietà dei suoni, dei fonemi, altezza, luogo dell'articolazione, luogo dell'esplosione, del punto della bocca in cui esplodono, insomma, tutta una serie di robe che adesso è inutile che, come dire, vi dico. Se voi trattate i suoni non dal punto di vista dei singoli suoni di una lingua, ma dal punto di vista delle caratteristiche generali che determinano questi suoni, quindi se riusciste come hanno fatto i linguisti, a costruire una sorta di tabella multidimensionale, non bi o neanche tridimensionale, ma se le caratteristiche, se le qualità pertinenti di un suono perché esso venga prodotto sono 7-8, io posso costruirmi astrattamente una matrice eptadimensionale con 7 dimensioni, cioè in cui ho 7 caratteristiche che messe insieme, questo ce l'ha, questo non ce l'ha, questo non ce l'ha, non ce l'ha, allora io ho questo suono, il suono B. Il suono B avrà una caratteristica di essere, allora per esempio, un suono può essere sordo oppure sonoro. B come sarà? Sordo o sonoro? Ah, okay. Sordo. Sordo? Voi dite che un suono esplosivo sia sordo? Che come sarà? Sordo o sonoro? Che chiaramente sordo, che, Ma B direi che è proprio sordo, non lo possiamo chiamare, B è sonoro. Cioè esplode, cazzo, più della B. È un'esplosione linguistica, la chiamano esplosivo, mica io non posso essere considerato responsabile della terminologia linguistica. Allora, insomma, diciamo, ogni suono è sordo o è sonoro? È sibilante o non è non sibilante? Sibilante è facile capire quali sono, i suoni sibilanti. è fricativo o non è fricativo, cioè c'è una, come dire, c'è in qualche maniera una... Fricativo, cioè i denti fanno un certo lavoro sulle labbra o no? Non le labbra da sole, come nelle esplosive, ma o nelle labiali, insomma. Entrano i denti o non entrano i denti? Tutte queste consonanti qua sono chiaramente dentali, altre sono dentali. Bene, se uno costruisce una tabella, è fricativo sì no, è dentale sì no, è esplosivo sì no, eccetera, eccetera, trova una, come costruisce una piccola carta di identità dei suoni. No? Lo studio delle caratteristiche fondanti dei fonemi, non di una lingua qualunque, ma di tutte le possibili lingue, prende il nome di fonologia. Allora, mentre la fonetica è lo studio delle caratteristiche sonore generali di una singola lingua, la fonematica è lo studio delle caratteristiche pertinenti di quella lingua, la fonologia dovrebbe essere una, in realtà è probabilmente la parte della linguistica contemporanea che ha avuto maggiore successo, perché è più semplice distinguere obiettivamente, cioè costruire un quadro, una tavola tipo quella che vi ho detto, poi è un po' più complicato ovviamente, non è che voglio dire che il lavoro di Trubetsky o di Jacobson sia stato semplice a fare, però insomma, diciamo, nel campo della fonologia è più facile che in quello della grammatica o della sintassi, per una serie di motivi. Ripeto, però, se vi capita di leggere questa cosa in sostituto, purtroppo tenete conto, è inutile che vi racconto tutte le cose, perché non... Perché invece voglio arrivare a una cosa fondamentale. Dimmi. Io puoi ripetere in maniera concisa. Concisa, eh? Questo è il problema. La definizione di fonetica. Posso ripeterla, ma in maniera concisa sarà dura. Ormai, poco a poco, dovreste cominciare a capire che io e il... La parola concisa. Non solo la parola, la pratica della concisione, abbiamo alcune incompatibilità. Allora, dicesi fonetica allo studio dei suoni di una singola lingua, appunto. La cosa più semplice è fonetica e fonologia. In realtà poi fonematica, io voglio farvela più semplice. È un termine complicatissimo, fonematica. Allora, i due termini semplici sono fonetica e fonologia. Fonetica indica, fonetica studio dei suoni di una certa lingua, appunto. Fonologia, studio di una teoria generale dei suoni linguistici, dei suoni, cioè quindi fra i due estremi, studio dei suoni di una lingua particolare e studio di una teoria generale dei suoni basata sulle loro qualità distintive, cioè tutte robe sordo, sonoro, esplosivo, non esplosivo, dentale, non dentale, eccetera, c'è una dimensione intermedia che è, potremmo dire, la teoria generale, cioè fonologia, applicata a una singola lingua, ecco, possiamo dire così. La fonologia di una singola lingua dicesi fonematica in genere. Quindi ci sono tante fonematiche, grosso modo, quante sono le lingue, ma in realtà però altri chiamano fonematica altre cose, ma a parte il Saussure che le chiama in maniera diversa. Mentre su fonetica e su fonologia non c'è disaccordo, quindi qualsiasi cosa troviate in cui c'è scritto fonetica e fonologia, vi potete fidare di quello che vi ho detto adesso. La fonematica e fonema non sono... Sì, ovviamente, la fonematica dovrebbe essere una teoria dei fonemi, certo. Però mentre il termine fonema in quanto tale, cioè, cosa sono i fonemi? Invece sono i suoni pertinenti di una singola lingua, basta, semplice. Suoni pertinenti, ripeto, quindi per esempio per l'italiano I e I non sono fonemi differenti, sono lo stesso fonema allungato. Mentre per un inglese I e I, infatti si scrive anche in maniera diversa. La I la scrive I come noi, la I lunga la scrive 2 E, la scrive in tanti modi 2 E e A a volte. Cioè, vabbè, perché l'inglese ha una storia complicatissima. L'inglese, la scrittura inglese è nata a due ondate successive con 3 secoli e mezzo di distanza. Quindi è cominciata in un modo con il vecchio, con il venerabile Beda, poi arrivano altri dopo 3 secoli e cambiano tutto e si sono mantenuti pezzi dei vari, per questo è così complicato l'inglese, sapete che ogni tanto c'è qualcuno anche in Inghilterra, ci facciamo una riforma della lingua perché non è possibile. È strano che... No, strano, no, dai, perché è strano? ce l'hai con l'inglese? No. Abbiamo capito, come no? Mi ricordo fino all'inizio ce l'hai con l'inglese. Ma che età fa per l'inglese? Sono i Beatles. I Beatles. Ho fatto un'altra riforma. Ma no, non l'ha fatto mai nessuno. Cioè, una delle più radicali l'aveva proposta George Bernard Shaw. Questi hanno cinque modi diversi di scrivere il suono F, no? E scrive F, PH. Vedi tu, cioè, adesso. Ho capito, ma poveri, ma c'è una ragione, cazzo, adesso, però non diciamo che sono proprio perché nella loro natura di popolo. Mi cioè, dà la sinistra. Vivono in un'isola! Teresa, Michela, come cazzo ti chiami? Michela. Vivono in un'isola, chi la allora, scusa, perché i siciliani sono, hanno tutti la testa a posto? Siamo seri, su. Cioè, quelli del Madagascar, che hanno tutti la testa a posto? Le isole sono esperienze concentrazionarie, inutile. Cioè, proprio, quelle piccole non ne parliamo. Prova a avere rapporti con uno dell'isola d'Elba. Io ne ho conosciuto uno, sono stato quasi amico. No, devo essere del buono, ma era difficilissimo che discutere con essere del buono, cioè mi ha maltrattato per un anno e mezzo prima mi ha trattato bene, poi mi ha maltrattato un anno e mezzo, poi alla fine, però dopo un po' è morto, cazzo, perché aveva un po' di anni più di me. L'isola, cioè, l'isola è un'esperienza. Chi è nato in un'isola di voi? Tu? Quale? Sardegna? Quale? Sicilia. Quale isola? Che isola? Sicilia. Ah, la Sicilia. No, poi sono le isolette intorno che sono peggio ancora, cioè le Lipari sono terribili. Cioè, ma un'isola comunque, cioè, è comunque la Sicilia, no, è lo stretto di Messina, insomma, è un'isola certamente, quindi va bene, però, per esempio, non siete così particolari come i sardi. In Italia, i sardi sono più isolati di voi. Voi siete lì che insomma con una barchetta facevate anche prima del ferribot, più o meno, sì, c'è Scile Cariti, ma insomma dai, soltanto i cretini dei greci che avevano delle navi veramente del cazzo, non potevano farlo, ma insomma. Comunque è un'isola, non c'è dubbio che sia un'isola. L'Inghilterra, cazzo, è separato dal resto dell'Europa, non ci sono più. E c'è la manica, ma l'hai fatta c'è la manica? Mai? Cazzo, io l'ho fatta in nave due volte, Dio buono. Cioè, sono ancora vivo per miracolo, cioè, vomitavo il triplo di quello che avevo mangiato a colazione, era tremendo, cioè, il mondo va su, cioè, terribile, quando il mondo ha un'escursione altimetrica di più di due metri, sei morto, cioè, cosa fai? Non so, non è l'acqua, voi siete, state tranquille, io non... È terribile, c'è un'esperienza, io anche non l'ho provata, cioè la barchetta, vabbè, uno dice, però la barchetta, l'elongazione è mezzo metro, cazzo, ma vai su un aliscafo, l'aliscafo è peggio che andare di notte, perché lui pensa, in realtà lui taglia, ma taglia col cazzo che taglia, cioè gli passa qualcosa, ma le onde fanno su e giù e se lo portano dietro. Se le onde che fanno su e giù ci devono propinare tutte le loro stranette. Ma siete, cioè tolleranza zero proprio, te sei... Ma io capisco, che stranezze, vivi tranquilla, te parli inglese? No, non sai inglese, immagino, sì, purtroppo lo sai, purtroppo per te. Sì, lo sai. Lo sai, lo parli, riesci a parlare, se vai in Inghilterra ti fai capire, non come me. Cioè, io chiedevo la strada come un cretino, avevo già 30 anni quasi, io chiedevo la strada per London. Ragazzi, cioè, pronunciavo come leggevo, anche London è una roba che non... Non ti sognare di dire London. Fanno apposta, ma... London. Capito, beh, dopo 10 volte capisci la differenza tra una O lunga e una O breve, cazzo. E non è da ridere, cioè, perché è così normale, cioè, quella è la loro lingua, poveri ragazzi, che vuoi che... Niente, non ti convinco, vabbè, non so. Mi consideri un pericoloso agente di Albione. Io figuriamoci, io sono un continentale, non. L'Italia è ambigua, perché l'Italia è una penisola, peninsula, quasi, pene vuol dire quasi in latino, non vuol dire quello che. Perché c'è AE, non c'è la E, non è, vuol dire quell'altra cosa che voi pensate. Quindi penisola è quasi un'isola. Vabbè, cazzo, qui stiamo, ragazzi, vi ho chiesto per favore quando divagavo di non, perché adesso non riesco a farvi la roba che volevo fare, restate un 10 minuti di più perché voglio farla. Allora, torniamo a noi. Il carattere psichico delle nostre immagini acustiche appare bene quando noi osserviamo il nostro linguaggio. Senza muovere né labbra né lingua, possiamo parlare tra noi o recitarci mentalmente un pezzo di poesia. Per il fatto che le parole della lingua sono per noi immagini acustiche, occorre evitare di parlare dei fonemi di cui sono composte. Questo termine, implicando una idea di azione vocale, può convenire solo alla parola parlata, alla parola espressa, quindi alla realizzazione dell'immagine interiore nel discorso. Parlando di suoni e di sillabe di una parola, si evita il malinteso, purché ci si ricordi che si tratta di immagini acustiche. Il segno linguistico è dunque un'entità psichica a due facce che può essere rappresentata dalla seguente figura. Un'entità psichica, non materiale, psichica, a due facce, che può essere rappresentata da questa figura. Questo qui lo leggiamo anche con il tempo. No, non volevo leggere il libro. Noi lo leggiamo a questo. Concetto, immagine acustica. Questa è la figurina che voi trovate negli appunti di Saussure. I due giovanotti, i due volenteri giovanotti gli hanno aggiunto due cazzo di frecce verticali, va bene, insomma. Una dall'alto verso il basso, l'altra dall'alto verso l'alto. Ah, guardate, quella ragazza da qui, ma la vai da qui, quella ragazza. Generano confusione, i due ragazzi. Questi due elementi sono intimamente uniti, il concetto e l'immagine acustica, e si richiamano l'un l'altro. Sia che cerchiamo il senso della parola, latina, arbor, sia che cerchiamo la parola con cui il latino designa il concetto albero, ripeto, sia che cerchiamo il senso della parola latina arbor, sia che cerchiamo la parola con la quale il latino designa il concetto di albero, è chiaro che solo gli accostamenti consacrati dalla lingua ci appaiono conformi alla realtà e scartiamo tutti gli altri che potrebbero immaginarsi. Questa definizione pone un importante problema di terminologia, perché noi chiamiamo segno, questo è il segno, questo è un segno, il segno è la combinazione di un concetto e di un'immagine acustica. Ma nell'uso corrente questo termine designa generalmente soltanto l'immagine acustica, per esempio una parola. Noi, questo è vero, noi diciamo il segno, cos'è per noi il segno parlando normalmente? È qualcosa, dicevano i logici medievali, qualcosa che sta per qualcos'altro, aliquid pro aliquo. Ora questo aliquid... noi lo identifichiamo con i suoni che emettiamo, con i suoni, no? Allora, non è propriamente il segno di cui ci parla, Saussure. Saussure dice il segno è la combinazione, l'insieme di queste due cose. È un concetto che viene espresso o che viene rappresentato da, che rimanda a, cioè che dà un'immagine acustica, o è un'immagine acustica che rimanda a un concetto, che esprime un concetto, dipende da come, ma ci deve essere sempre entrambe le componenti per dire che è un segno, secondo Saussure. Mentre spesso noi il segno lo riserviamo alla parte inferiore dell'immagine, il segno ci sembra che sia l'immagine acustica, non è così, il segno è l'unione, è la relazione che c'è tra le due, non in queste pagine, ma in altre pagine, a volte Saussure dice: il concetto e l'immagine acustica sono come le due facce di un foglio di carta. Certo che io posso distinguerle, ma non posso separarle fisicamente. Il segno è unico. Nel segno posso io concettualmente distinguere queste due componenti. Si dimentica che se arbor è chiamato segno, ciò è solo in quanto esso porta il concetto albero, in modo che l'idea della parte sensoriale implica quella del totale. L'ambiguità sparirebbe se si designassero le tre nozioni qui in questione con dei nomi che si richiamano l'un l'altro, pure opponendosi. Adesso arriviamo al punto. Noi proponiamo di conservare le parole segno per designare il totale e di rimpiazzare concetto e immagine acustica con, rispettivamente, con significato e significante. Ecco l'origine del significato e significante. Questi due ultimi termini hanno il vantaggio di rendere evidente l'opposizione che li separa, sia tra di loro, sia dal totale di cui fanno parte. Il totale è il segno. Il significante e il significato sono l'immagine acustica che porta il concetto. Significante, immagine acustica, significato, il concetto. Quanto a segno ce ne contentiamo perché non sappiamo, per il fatto che non sappiamo come rimpiazzarlo. Non abbiamo una parola migliore per dire segno, perché la lingua usuale non ne suggerisce nessun altro. Il segno linguistico così definito possiede due caratteri primordiali, che adesso esamineremo. Uno è quello che vi dicevo l'altra volta, l'arbitrarietà del segno, e il secondo è la cosiddetta linearità del significante. Allora, adesso ci diamo la parola, perché sennò... Quindi, adesso, da ora in poi, possiamo identificare, possiamo chiamare significato il concetto. Attenzione, sempre con non identificate il significato con un elemento esterno alla psiche. Tutto il segno è interno alla psiche, fa parte tutto di un'attività psichica, sta tutto nella nostra mente questa roba qua, quindi il concetto è nostro, è psichico, e l'immagine acustica idem. Certo, c'è un riferimento al mondo, chiaro. Il concetto, il significato quindi rimanda a degli oggetti, ma non solo oggetti, a degli stati di a degli stati di fatto, a dei dati di fatto, a delle situazioni del cosiddetto mondo, del mondo esterno. Ma la semiotica, che già Fernand de Saussure auspicava che venisse costruita, forse era meglio di no, ma insomma ormai ce la teniamo per questo, e la linguistica comunque sia, ci parlano, non ci parlano del mondo, ci parlano della nostra attività in relazione al mondo, ma della nostra attività mentale. Quindi allora questo è il significato e questo è il significante. Allora dobbiamo brevemente, mi spiace, ricordare la lingua in cui parlava Ferdinand de Saussure, parlava e scriveva Ferdinand de Saussure, che è il francese, sia pure il francese di una particolare zona geografica e linguistica, che è la Svizzera francofona, insomma, comunque sempre francese. In francese tutte e due i termini che corrispondono per noi al significato del significante sono due neologismi, cioè due parole che non esistevano prima di Saussure, che Saussure si inventa. Le signifiant signifiant nessun'altra lingua europea né mondiale legge la sequenza delle lettere GN come fa l'italiano col suono gn, nessun'altra. Quindi rassegnatevi a leggere, ogni volta che trovate il nesso GN in un'altra lingua leggete gn, non potete leggere gn. Noi diciamo significante in italiano, però in francese è signifiant. Signifiant, la T finale è muta perché fa parte della parola generale deposito, e quindi se non c'è una vocale dietro non va letta in francese, e quindi questa parola in francese si legge signifiant, signifiant. La N nasalizza la A e la T non si legge proprio, quindi signifiant. Avete capito? È così anche, che si può fare in francese. E signifie. Signifi e significa questi termini in francese prima di Saussure non esistevano, ok? L'italiano non esisteva neanche in inglese, eh? Quindi in inglese significante proprio non c'era nessuna parola che intendesse di significato, in inglese è meaning scritto con la EA, meaning, uno dei modi che hanno di scrivere la I lunga, meaning. In Italia, e questo in quasi tutte le lingue, in cui quindi De Mauro fa una nota che vale la pena almeno per qualche, che è la 134, per qualche lingua di guardarla, insomma. Allora, signifie e signifiant, diversamente da quanto accade in italiano per significato, che qui usiamo come equivalente di signifie, ma che in realtà è l'equivalente corrente del francese signification, come participi sostantivati, non avevano tradizione in francese prima di Saussure, e hanno posto qualche problema di traduzione nelle varie lingue. I traduttori di Saussure hanno fatto ricorso a das bezeichnete, per chi sa il tedesco, das bezeichnete, e das bezeichnende per il tedesco, e signify del signifier per quanto riguarda l'inglese. Lo spagnolo, che possiede un tradizionale significato, è in posizione analoga all'italiano, perché c'era già una parola spagnola. È incerto se l'italiano, possedendo una parola corrente, già che vuol dire significato, sia pure in maniera diversa dal, vuol dire un'altra cosa, dal significato, Nella teoria saussuriana, dice, è incerto se l'italiano, possedendo una parola corrente come significato buona per rendere senza sforzo il signifié saussuriano, sia del tutto in vantaggio. Perché non? Perché potremmo non essere in vantaggio? Perché già ce l'abbiamo, vuol dire già un'altra cosa, e ogni volta che usiamo significato nel termine saussuriano dobbiamo fare un lieve spostamento mentale per dire, no, ma vuol dire non il significato, non il bedeutung, diciamo tedesco, la signification o la significación francese, ma il significato saussuriano, cioè quel concetto a cui è collegata quella certa immagine acustica. Qualche volta si ha l'impressione che con la facile equazione linguistica si scarichi sulla nozione saussuriana tecnica, e come vedremo non troppo equivoca, tutto quello che di vago, indefinibile, si riconnette alla parola significato, e in altre lingue ha parole come sin, tedesco, bedeutung, tedesco, meaning, inglese, signification, francese, eccetera. In particolare forse è utile rimanere un attimo, perché sia sin che bedeutung sono, chissà, qua chi è che sa il tedesco? Ok, tu sai già cosa vuol dire sin e bedeutung? Sarà più facile che per altri. Allora, perché sono così interessato alla definizione bedeutung? Perché sin e bedeutung fanno parte del titolo di una delle più importanti opere della logica del Novecento, di Gottlob Frege, che si chiama appunto Über Sinn und Bedeutung. E sin e bedeutung sono due parole tedesche che noi potremmo tradurre in questo modo, entrambe con significato. In realtà però sin vuol dire... Allora, sin però è tradotto più correttamente con senso, indica quindi un significato in senso, diciamo, generale, in senso generale, un significato in senso generale, quindi senso, il senso delle cose, das Sinn perché è neutro, sì, giusto che è neutro, sì, das Sinn, sì, das Sinn. Vedete, bedeutung è femminile, e deriva dal verbo bedeuten, che vuol dire più chiaramente significare. Questo è femminile, Allora, il nesso EU in tedesco si legge OI, mi dispiace per voi, ma... quindi Bedeutung, o Europa, in tedesco così dico. Bedeutung, Bedeutung deriva da Bedeutung, che vuol dire più significare, quindi questo è, viene tradotto più come, in generale, come l'italiano significato, però attenzione, perché in una... perché vi dico, allora, perché Gottlob Frege nel 1898, credo, scrisse un'opera, ripeto, chiamata Über Sinn und Bedeutung, sul, a proposito di Sinn e Bedeutung, che viene tradotto, a volte viene tradotto come sul senso e sul significato, ma invece forse più correttamente sarebbe meglio tradurre con sul significato e sul referente. Bedeutung può volere, e voi capite che ginepraio ci mettiamo qua, che vi ho detto, attenzione, il significato non è il referente, il referente è l'oggetto del mondo o la situazione del mondo a cui il significato fa riferimento, ma non... Allora, però, purtroppo le lingue sono complicate, ragazzi, non è colpa mia. Come dire, difficile rendere in maniera equilibrata e insieme fedele e insieme significativa, però, cioè utile, una coppia di termini del genere, insomma, no? Perché Frege fa questa cosa? Perché Frege fa questa operazione però vedete che gli è facilitata dalla lingua in cui scrive. A volte capita che una lingua sia più adatta a descrivere certe particolari sfumature che non, diciamo, un'altra. Per un inglese è più difficile. Quando due inglesi negli anni 30 vollero scrivere un libro sul significato, Ogden e Richards, furono costretti a scrivere un libro chiamato The Meaning of Meaning. The Meaning of Meaning. C'è una notazione, una frase ricorsiva che come complemento pigliava, ripeteva il, come dire, soggetto, ma derivante dal fatto che l'inglese non ha due parole differenti per dire significato, ha solo meaning. To mean, voler dire, significare, meaning, il significato. Mentre i tedeschi, avendo questa... Poi questo gli crea casini anche a loro, ma insomma, però perlomeno in una prima fase, posso distinguere tra Sinn e Bedeutung, quindi tra il senso interno di una, per dire, no? Tra il senso interno di una frase o di una posizione linguistica e il suo aspetto di rapporto invece col mondo. Quindi per questo che a volte viene tradotto. Quindi voi trovate quest'opera di Frege tradotta in modi diversi. Sul senso e il significato o sul significato e la referenza. Il fatto è che il referente è un termine molto tecnico, cioè non è che uno, mentre la parola ha significato, la potete scambiare probabilmente anche con il vostro portinaio o con il garzone del lattaio, che non esiste più, mi rendo conto di parlare di un mondo che è morto definitivamente, ma insomma. No, non ci sono più ragioni di lattaio, immagino, non ci sono più neanche latterie, non ci possono essere più ragioni di lattaio, però sono così, come si può dire? Allora, il termine significato si usa ancora in italiano, neanche nell'italiano corrente. Il termine referente probabilmente, no, referente sì, si usa per uno che ti fa la lettera di raccomandazione, il referee, no? Il referee in inglese. Basta, per l'italiano no. Allora, oggi abbiamo perso un'ora perché io sono un coglione e questo è anche rimasto registrato, ma è bene ci siano dei documenti che provano una cosa. E la prossima volta quindi parleremo di questi due principi che Foucault, perché sono uno dei, soprattutto il primo è delicatissimo, l'arbitrarietà del segno, a cui è collegato poi quello di cui parleremo dopo, che è il concetto di valore, il valore dei segni linguistici. Se senza capire che cosa intende Saussure per arbitrarietà, perché anche questo può essere un equivoco, insomma. può sembrare una cosa banale, insomma, perché le lingue sono tante, quindi sono tutte relative, grazie all'anima. Noi cerchiamo di non di sottrarre questa logica, non si offendano i nostri cugini della capitale vagamente romanesca del relativismo, perché non è questo il punto. Sono tante lingue, ognuno già la sua, parliamo tutti in una cosa diversa, un po' più complicato. Però insomma vedremo che cosa intende Saussure per arbitrarietà e vedremo che cosa costruisce su questo. Tu vuoi dirci qualcosa? No, volevo parlare con loro, siccome l'avevo accennato l'altra volta, sì. Gli argomenti del corso, magari sì. C'erano alcuni no. Volevo prima di tutto capire il corso, perché sono andata a vedere i piani, sì. Studi che hanno e tutto il resto. Sì. Cioè voi siete tutti del... Quasi tutti. Volevo che magari capire tutti. Un po' quali erano... Allora, abbiamo la grande maggioranza di nuove tecnologie, più una persona di grafica, che oggi non c'è però, e una persona di comunicazione che non c'è neanche, quindi quelli di oggi sono tutti di nuove, la grande maggioranza quest'anno non c'è. E la nuova tecnologia è l'indirizzo del TART, cioè più che altro nessuno, allora, di voi. Il problema è, praticamente loro possono non scegliere l'indirizzo fino a tutto il primo anno di fatto, questa è la pensata. Ok, e caratterizzante la pensata di non si sa chi, però... e quest'anno li ha detto, sì, NetArt, se loro fanno, comunque sono cazzi loro, loro lo fanno, nel senso, se poi fanno NetArt rimane obbligatorio, se no gli risulta facoltativo e gli blocca 9 crediti, perché sono lunghe, perché è un corso grosso, ma perché sono 9 crediti, non sono 6 come quelli nostrani, quindi... Però diciamo, sono tutti interessati, insomma, se lo fanno si sbattono come dei disperati, quindi... Chi è che deve, c'è qualcuno che deve ancora firmare? Mi pareva. Allora, il discorso teorico da fare, diciamo, nella parte della... perché poi sarà teoria, a quanto pare. Si può anche prevedere una parte laboratoriale proprio pratica, però dipende naturalmente da quelle che sono le caratteristiche delle persone che sono nel corso. Allora, il professor Canaria ha detto che parte, cioè sta facendo tutta una parte sulla linguistica, poi arriverà nella questione delle immagini, eccetera. A me interessava parlare del pensiero, cioè quello che viene definito più genericamente pensiero femminile, ma comunque che nasce all'interno del pensiero femminista, cioè del percorso storico del femminismo. E all'interno di quel pensiero ci sono diverse, non esiste un femminismo, ne esistono tanti, e ci sono diversi studi sulla parte della linguistica sicuramente, e alcuni, una parte diciamo teorica di alcuni studi sul femminismo si concentrano molto sulla psicanalisi, e che ha una connessione molto stretta con la linguistica, soprattutto con i Peirce di Saussure e su Lacan. Mentre c'è un'altra parte del femminismo che è più legata al pensiero di Foucault, nella questione dell'immaginario. Entrambi sono due percorsi di pensiero interessanti, e sono connessi, secondo tutti, alla questione sia dell'immagine, ma per me è interessante la connessione con la questione del linguaggio informatico. Linguaggio informatico non inteso solo come unicamente come programmazione, come discorso sulle intelligenze artificiali o sulla... cioè la pura logica matematica dell'informatica, ma anche tutto l'aspetto della creazione di un simbolico, visto che Warburg fa un acchiattimento tra simbolico e immaginario velocissimo, sì. Nel capitolo se il simbolico... Questo qua, Wernerburger, è un francese, un francese atipico, lo so. Però è simbolico della interfaccia, poi magari capiremo che cosa si intende per simbolico nella psicanalisi, perché ha una connessione molto stretta con il pensiero di Lacan, e sia per quanto riguarda l'immaginario tecnologico, e quindi insomma aspetti più di superficie, non di profondità del linguaggio informatico. E volevo anche capire da voi qual era il vostro approccio con la parola femminismo, e con il tipo di corso che state facendo, cioè il percorso di studi che state facendo, perché se ci sono più di performativo si può fare più un discorso sulla questione della performance linguistica, che poi sicuramente svilupperete con Folci nel, se lo avete non sai cosa hanno Folci. Secondo semestre ha detto che viene. Viene? No. Prima ho detto che lo saltava. Lo saltava perché... E, quindi si può fare un discorso più sul performativo, sì. Linguistico, il linguaggio legato al performativo. E, oppure se è di NetArt naturalmente bisogna lavorare più sulla questione del linguaggio informatico. Quindi vi chiederei di fare una cosa che forse è anche un po' fastidiosa, però secondo me può essere utile, se mi dite i vostri nomi, che corso fate e che rapporto avete con la questione del femminismo. Cioè pure che idee avete come in generale come parola, facciamo cioè, a giro, non so che non è molto. Allora io sono Max, faccio interattivo e performativo. Ah, vi volevo chiedere pure che percorso scuole avete, cioè se avete fatto filosofia, sì. Se non avete fatto filosofia, sì. Se avete. Ok, faccio interattivo e performativo, ho fatto Downs a Bologna nel triennio. Non ho una conoscenza. No, però quando ti viene in mente la parola femminismo di solito. Cosa penso? Avevo incrociato l'argomento un po' di tempo fa per il manifesto SCAM. Una roba leggerina. Sì, esatto. È anche molto storico, però okay. E a parte questo non ho mai approfondito in nessun modo okay. Allora SCAM, allora, tutti sapete cos'è? No, sì, tutti sapete, ma no, non lo sanno. Allora SCAM vuol dire tante cose, tra le quali anche una cosa piuttosto volgare, però è un acronimo invece di una società, di una pseudo associazione fondata da una femminista inglese, inglese in realtà, inglese, insomma, di origine americana, poi si è trovata in Inghilterra, non so, comunque si chiama Valerie Solanas, e l'acronimo era Society for Cutting Up Men, cioè società per castrare i maschi, per castrare gli uomini. Insomma. Questa è, rimase famosa, questa Valerie Solanas, perché fece una specie di, diciamo, promosse e realizzò, senza conseguenze fondamentali, un attentato a Andy Warhol nel 66, negli anni 60. Però era molto simpatico il manifesto. Okay, il manifesto è una roba divertentissima. Oddio, per gli uomini lo prendono molto, diciamo, in maniera molto, è molto aggressivo. Ma io però, siccome lo lessi, mi ero già filtrato il mio femminismo prima, per me è stato divertente leggerlo, insomma. Anche perché si può prendere in maniera metaforica, si può prendere in tanti modi, insomma. Però è una roba, quindi qua per questo quando lui ha detto così, abbiamo detto cazzo, è una robina leggera. No, però comunque lei è un personaggio, a parte adesso come l'abbiamo presentata, potrebbe sembrare una stupidotta, invece è un personaggio anche teoricamente interessante, insomma, nel panorama. È stata un'ala estrema del femminismo, anche da un punto di vista, cioè non tutte le femministe hanno fatto. Sì, quella è una parte di un pensiero femminista. Sì, sì, no. Non voglio togliere il faccio a lei. No. Ok, grazie. Qualche altro vuole raccontare? Se facciamo il giro. Sì, sì, scusate. Se qualcun altro vuole raccontarci. Io sono Laura e ho fatto scienze della comunicazione a Cosenza. Okay. E, guardo la questione, non sono mai vicino da troppo da sentirmi parte battaglie, però chiaramente se penso alla parola penso anche a delle cose abbastanza autoreferenziali e un po' consuete. In realtà è una cioè tu le interpreti come una sorta di rivendicazione femminile verso una serie di diritti, cioè nel senso che sì. No, in effetti è una brutta parola. Sì, è brutta. È un termine complicato che però comunque ha assunto un sacco di significati nel corso del tempo. Sicuramente quelli più evidenti sono quelli che dici tu, effettivamente. Sì. Francesca, anche io interattivo e performativo, ho fatto l'Accademia Novara. Tu che cos'è che... Ok. Ok. È la stessa idea. Proprio identica. Ok. Giorgio. No, rispetto, mi spieghi che significa non mi muovo da lì. No, nel senso che non mi sono mai neanche inoltrato nella chiedermi che cosa volesse forse dire di più. Ok. Almeno so che anche lo senso è relativo, da cui vengo avuto varie definizioni di circoli femministi, le femministe più chiare, anche sono interventi femministe, le capisco. Invece sono state grosse, ormai avvicinata troppo per alcuni atteggiamenti. Quando hai finito il corpo? Quando hai preso la laurea? Mi sono laureata no, in movimento. Okay. Ok, quindi cioè, comunque tu hai avuto contatti con non c'era, determinati gruppi che... Non c'era già più birra. Non c'era già più birra. C'era ancora? E poi dopo è andata a Roma, dall'anno dopo. È stato l'anno dopo. Ah, ok, quindi ha avuto birra nella... Quindi ha fatto il tempo ad avere birra. Un uomo che ha fatto una sistematica rinduzione del pensiero femminile dal suo pensiero, lo fa, lo utilizza tanto, però comunque... Non lo dichiara mai, ma non lo dichiara mai. Non lo dichiara mai. Vabbè, neanche io peraltro. Una generazione che ha avuto un trauma. Nel mio piccolo. Non è la no, vabbè, era più o meno la mia, sì, più o meno va bene, ma comunque cioè, volevo chiederti, per te è stata tipo un incontro con questi gruppi che avevano una tipo di politica di rivendicazione, mi sembra c'è un tipo di quadro da stagione. Ah, ok, a casa si chiama, ok, quello che non mi ha mentre per te ti sei sempre sentita comunque estranea all'argomento, non ti interessa. Non tanto. Sono Giorgio, ho fatto il triennio in ingegneria e faccio ingegneria aerospaziale. Aerospaziale? Wow! L'unica che non ha buttato via i suoi tre anni di università. Io non ho capito. Qua dentro, ingegneria aerospaziale. Che cosa c'è scritto? È in processo formativo. Ok, quindi spensato un po' mai approfondito l'argomento la rivendicazione di diritti e Ma più a Milano l'hai fatto? Altro te. D'accordo. Sì, no, dico ti interessa o non ti interessa? Sì, ciao. Non ho sono Michela. Ho fatto pittura, 3 anni a Cervera. Okay. Prima ho fatto economia. Io ho ancora fatto il liceo classico, dunque rispetto alla chiusura. Quindi hai fatto anche un triennio di economia? Sì. Finito? Quindi hai 2 lauree triennali? Sì. Cioè 2 lauree diploma. Ok, poi okay. Adesso qui sei lì? Adesso vorrei fare le tarte. Ah, le tarte. Ok. E riguardo la parola femminismo, non ho mai avuto un'idea chiara. Sicuramente ogni volta che penso al femminismo poi l'associavo automaticamente a maschilismo, un'altra parola che non sapevo mai comunque... la ribaltavo e poi vengono anche le associazioni di tipo figurativo, suffragette, tutte quelle cose che vengono. Mm-hmm. Sì, con il periodo io abbastanza okay. In più odia l'inglese. Eh? In più odia l'inglese, sta sul cazzo l'inglese. Mi stanno sul cazzo l'inglese. No, vabbè. Ok. Quindi insomma associazioni sempre sulla questione rivendicativa, diritti, così. Sì, perché è altro quello. Pure a te sembra che comunque non siano... Però non è una cosa che nella mia vita ha una rilevanza. Cioè non ci ho mai pensato, però se qualcuno mi dice femminismo, penso a quello. Però non ho mai vissuto la cosa... Cioè, no. Ok. Non ce l'ho mai pensato. Sono Stefano. Ho fatto triennio di nuova tecnologia qua a Brera. E ci siamo incrociati qualche volta, qualche anno fa, no? Vabbè, io finito. Dopo di te la fanno. È stato già, uno è un affezionatissimo amico, segue i miei corsi da per 4 anni, non so, hai dato già un esame? No, sì, già a quello del triennio. Sì, ma anche del biennio, se ogni tanto viene. Che è uno scala qua. Cinema video. Cinema video. Questo termine non conosco tanto, ma si è definito come un movimento contemporaneo. Mm-hmm. È molto aggressivo, ma conosco pochissimo. Mm. Io sono Luca. Vado? Un aggressivo pericoloso? cioè ti dà fastidio? No, o lo consideri aggressivo? No, perché lo conosco pochissimo, allora non lo neanche, ma ho detto aggressivo perché, sì, anche perché magari non mi interessa o non conosco, sempre lo sento. Ma non ti consideri minacciato direttamente da questa cosa? Non la consideri una minaccia, ok. Questa è una cautela. Ma Luca, che hai studiato, faccio un ciclo a multimediali e... Okay. Hai studiato dove? Qui? No, ho studiato a San Marino, ingegneria industriale. E niente, io non so come rapportarmi a questa parola. Cioè non... avevo fatto un po' fatica, come dire, a rapportarmi con tutti gli ismi che ci sono. Io, se conosco una persona che ama definirsi in quella maniera lì, poi me lo spiega cosa è per lui e io so che cosa vuol dire per lui. L'idea generale del concetto non ce l'ho, perché non ho conosciuto nessuna persona che me l'ha spiegato. Ok. Io sono Daniela, provengo dall'Accademia di Palermo. Di Palermo? Sì, ho fatto 3 anni in pittura. Pure io non mi piace molto il concetto di passivismo, tutto quello che può definirsi un'associazione oppure una contrapposizione molto ideologica, diciamo. Quindi cioè, rispetto a questo termine hai sempre avuto un'esperienza di questo tipo comunque? Sì. Magari delle distinzioni. Che corso fai tu? No, ma che indirizzo? Che indirizzo di biennio? Biennio. Ma che indirizzo vuoi fare? Non l'hai scelto. Io sono Chiara e come Michele ho fatto 3 anni di pittura a Brera. E adesso sto seguendo il biennio per Net Art. Per quanto riguarda la questione del femminismo, anche se faccio un lavoro che spesso mi porta a contatto con molti uomini ed è molto legato al... Che lavoro fai? Io faccio una modella per scultori. Ah, ok. Scultori, come la mia coinquilina. C'è un'amica cara che penso solo tu. E anche se faccio questo genere di lavoro, quando penso al termine femminismo, mi sembra una cosa quasi data... Cioè per me è quasi data per scontata, nel senso che non sento più per quello che intendo io per femminismo, è ancora il cliché legato alla lotta per determinati, per l'emancipazione, per determinati diritti, non lo sento più come una cosa da conquistare per me, cioè, essendo comunque al di fuori della questione perché non sono mai interessata. Ok. Chi vuole? Io sono Giulia, arrivo da un triennio di fotografia in un'accademia di Brescia. La Rapa? Sì. Ho fatto prima liceo artistico, ho fatto filosofia con un professore che mi ha sempre abbastanza stimolata, diciamo. Sì. Mi aspettavo degli insulti, invece è uscita. No. Anzi, sì. Era un personaggio molto particolare, arrivava sempre ubriaco alle lezioni, sì, però mi ha insegnato tante cose. Allora, è una particolarità un po' complicata. Comunque sia, io, vabbè, adesso sono qui per fare, spero, penso di prendere l'indirizzo Net Art, ho il titolo di anch'io. Okay. E rispetto al discorso del femminismo, io ho una non so se dire fortuna, in certi casi anche un po' sfortuna. Una mamma che ha sempre un po' preso questa cosa come una sfida per sé, diciamo. E io cioè, la seguo a volte anche nei lavori che lei fa, seguo delle associazioni. E in casa siamo 4 donne dai 12 ai 70 anni. Quindi diciamo che lo vivo un po' nel quotidiano, ma non so se è lo stesso tipo di concetto che poi vogliamo affrontare. Forse sì, nel senso che nella mia piccola bolla di vita vivo abbastanza quotidianamente questa condizione. Cioè che tipo di approccio è? No, nel senso che io appunto non so se è lo stesso tipo di concetto a cui magari lavoreremo. però intendo nel mio piccolo che sento questa parola abbastanza presente, nel senso che il rapporto tra donne, diciamo. Sì, ecco, una cosa forse anche più sempliciotta, se vogliamo dire, però forse fa parte anche quello da lì. Ma la tua mamma si considera parte, si è considerata mia mamma forse parte quando, del movimento femminista quando era più storico, giovane, sì, sì, okay. Quando era più giovane è anche molto militante. Sì, sì, sì, sì, militante. Quindi ha fatto del, ora ovviamente si è un po' calmata. Vabbè. Comunque lavora in associazioni contro la violenza sulle donne, tutte cose okay. A volte anche un po' pesanti. Vivi a Brescia, tu vivi a Brescia? No, io sono di Lecco. Ah, sei di Lecco, sei stata a Brescia? Non sei... Però non sapevo il passaggio dei promessi sposi. Prima ha parlato dei promessi sposi. E io sono anche di Lecco, dovrei sapere a maggior ragione. L'inizio è il ramo del lago di Como, cioè dice lago di Como, è il lago di Lecco, parlo del lago di Lecco. Sì, sì, è di Lecco. Il lago di Lecco è un ramo del lago di Como. Sono Nomi, parliamo le nuove tecnologie di evoluzione all'età. Riguardo il femminismo, direi che sono una femminista più o meno, sì, cioè. Ma niente, non dai, in che senso lo intendi? No, in che senso lo intendi? Si considera femminista, è la prima che si considera femminista. È una cosa interessante. Quindi hai avuto contatto col femminismo o lo ti consideri tu personalmente? Hai, cioè, conosci il pensiero femminile o hai fatto delle cose all'interno di gruppi? Oppure ti consideri così, cioè perché lo sai come caratteristica? Il mio lavoro artistico ha sempre qualcosa con la femminilità, non sempre, ma tante volte. E poi è il modo in cui vivo, diciamo, contro quegli soggetti della femminilità e come una si sposta nel mondo. Che tipo di lavori fai? Video, ritardo? Come definiresti? Solo per un accenno così. Non lo so, sto provando a fare tutto, vediamo cosa. Vabbè, però per esempio nella arte contemporanea c'è tutto un filone dell'arte che viene definito genericamente narrative art, che è quello di Sophie Cal. Non so se conoscete Sophie Cal, che parte molto da sé, e quindi diciamo un tipo di arte, di approccio artistico che ha l'aspetto narrativo e biografico del partire da sé in relazione ad altri, quindi diciamo in quel tipo di arte c'è molto, non direttamente esplicitato, però ci sono tanti artisti che lavorano da questo punto. È un punto di partenza simile a quello delle teorie e delle pratiche femministe anche in altri campi, non solo dell'arte. Partire da se stessi, raccontare se stessi, eccetera. Sì, non solo. Esaminare più altri, cioè posso io essere un parte degli altri, ma sì, c'è una lavori che sto facendo delle cose che partono da me stessa, ma è più interessante sullo scambiare il genere, la questione dell'aspetto della femminilità nel sociale. Cioè, è un lato, non è che faccio i lavori sulla femminilità, è un lato dei miei lavori. Comunque, insomma, bene. Allora, mi chiamo Di Xinjiang, ho fatto 4 anni di disegno per arte nell'Accademia che si trova in Cina. Adesso faccio Netart. Con un bellissimo accento inglese. È un bellissimo accento inglese. Io ho capacità su computer grafica. Ok. Non so tanto su femminismo. Non conosco tanto su questo. Ok. È un termine, vabbè, come femminismo in inglese. Ti dà fastidio, ti piace, non ti piace? Normale, sei indifferente. Meglio, meglio. Anche io. tu invece che cosa hai sentito? Sono Sara. In Iran ho fatto matematica e anche musica. Wow. Poi anche io non ho conoscenza corso femminismo. Comunque. Va bene, ma se, cioè, non hai un rapporto né di odio né di rapporto di interesse. Non ho conoscenza, non posso dire che o interessa o non interessa, non ho conoscenza. Mm. Allora, comunque, posso sì, il mio? Ah, è vero, infatti c'è ragione. Metti sì. Allora, io ho fatto nuove tecnologie il triennio e poi ho fatto anche il biennio in performativo. E, allora, rispetto alla teoria femminista, sono una programmatrice di siti web. E quindi ho lavorato molto in internet, per questo mi sarebbe piaciuto se fossero stati in maggioranza in internet, lavorare anche dal punto di vista della, però c'è un numero, del linguaggio, cioè del linguaggio informatico, se vi interessa. Però in realtà, anche senza addentrarci, diciamo, nella questione del linguaggio informatico, quando ho iniziato a studiare quanto il percorso di teoria di media, voi anche McLuhan, De Kerckhove, o cercavo una sorta di critica, analisi di un determinato tipo di linguaggio, comunque di un contesto culturale che è quello dell'informatica, che comunque viviamo, non c'è da fare distinzione tra un contesto e tutto quello che noi comunque viviamo giornalmente. E cercavo delle critiche o comunque anche delle differenze all'interno di questo contesto. In realtà quelle differenze non emergono quasi mai, e perché il linguaggio informatico, comunque quello della logica matematica, è abbastanza rigido. E ho iniziato ad approcciarmi al femminismo partendo proprio dall'informatica, quindi non da un percorso. Sono un attivista, perché poi in Italia viene definito militante, però non mi piace perché è una parola veramente no, molto... No, meglio attivista. E la parola inglese attivista, l'inglese si usa molto di più, l'attivismo, che è una cosa che preferisco. E ho fatto molto attivismo e anche all'interno di quell'ambito mi sono avvicinata a diverse teorie teoriche, Virno lo conosco, cioè lo conosco come pensiero, il Negri che è quello dominante, insomma ci sono dei pensieri maschili abbastanza dominanti, diciamo, nel mondo dell'attivismo, non solo in Italia ma all'estero. Nella Net Art lo troverete proprio praticamente quasi ovunque, Negri, anche Biffo comunque anche troverete. Biffo, e sinceramente a un certo punto ho cominciato a studiare la psicanalisi, sono trovata per le mani un libro della Muraro che parlava di Lacan e di simbolico, e ho scoperto che nella psicanalisi c'era un'associazione con la linguistica. Da quel punto di partenza ho cominciato a studiare tutti i linguisti possibili, da Benveniste, Jacobson, cercando di capire quali fossero i principi delle loro teorie. Però c'era sempre uno scarto, e comunque anche all'estero ci sono molte più donne che parlano dell'associazione tra l'informatica e il pensiero femminile. C'erano poi tutte le critiche al linguaggio informatico. Man mano quindi mi sono addentrata in questo pensiero, non con istanze di rivendicazione, perché poi nel pensiero femminile non c'è di per sé, è un percorso molto lungo e molto complesso, e effettivamente ad alcune dice fanno le suffragette, effettivamente sì, le suffragette hanno fatto parte del percorso del femminismo, la rivendicazione dei diritti ha fatto parte del percorso del femminismo, o anche l'emancipazione è stata una delle parole che è stata legata molto spesso al femminismo, però in realtà il pensiero femminista non nasceva per l'emancipazione, ma per la liberazione. Cioè, questa è la svolta dei primi anni 60. Cioè, era molto connesso al concetto di libertà e di autodeterminazione e di ridefinizione del sé. sono tutti concetti che uno dice, vabbè, sembrano solo rivendicativi o di tipo politico o comunque relegati a un ambito. In realtà tutto il pensiero femminile poi si è sviluppato tantissimo all'interno della linguistica, della psicanalisi, della... come posso dire, Foucault, del post-strutturalismo, ecco, del post-strutturalismo, hanno introdotto delle, hanno fatto, diciamo, delle innovazioni molto importanti, per me sono state molto importanti, ma proprio anche nel lavoro di programmatrice, e quindi nel lavoro poi, ho lavorato anche nella NetArt, faccio parte di una mailing list, sono moderatrice di una mailing list che si chiama AHA, si chiama Activism Hacking Artivism, che cerca di unire l'aspetto politico e critica ai media all'arte. E in tutti questi argomenti c'è sempre stato un pensiero femminile che mi ha interessato e che adesso si sta sviluppando come un pensiero di grande credibilità a livello proprio internazionale, quindi secondo me è importante poi conoscerlo. All'interno di questa carriera è praticamente inesistente, questo adesso fa questa cosa, perché avrete in contatto tantissimo con il pensiero, diciamo, operaista, con Folci o con Bifo, però in quel tipo di pensiero c'è una sorta di rimozione, tutto un altro area teorica che introduce molto l'aspetto della differenza, ecco. Più che di contrapposizione aggressiva, che effettivamente è vero, cioè, è uno degli aspetti che è caratteristico del femminismo, c'è l'introduzione del concetto di differenza, di scarto, di relazione, e sono tutti concetti che secondo me sono molto utili anche nella comprendere le interfacce del web. Poi magari vi porterò, lavoreremo su testi facendo prima un percorso, diciamo, basi, questa è l'idea che avevo, partire dai linguisti. Il professor Cagliari mi spiega Saussure. Io pensavo che fosse necessario, interessante, introdurre anche Jacobson. E Jacobson è molto utile il rapporto tra metafora e metonimia, che è un tipo di rapporto che è legato alla produzione, perché per Jacobson è legato anche alla produzione artistica. Lui mette su due assi la metafora e la metonimia, poi fa la proiezione della metafora sull'asse della metonimia e dice che quello è il punto dell'arte, della poesia. C'è un testo poi della Muraro che si chiama Un rapporto politico tra metafora e metonimia e analizza quelli che sono i processi di ipermetaforizzazione del mondo contemporaneo legandosi alla linguistica. Ora, i processi di ipermetaforizzazione possono essere anche quelli informatici, cioè possono essere quelli del linguaggio informatico. Quindi quella è una critica che mi interessava fare. Poi mi interessava, cioè, che mi proponevo di fare. E poi naturalmente introdurre il concetto di performativo nel linguaggio, e quindi Austin, e parlare più della fare un percorso tra i pensieri femminili fino alla Butler, e quello della performance, dell'action, della presa del corpo, però dell'ironia, dello spostamento per creare nuovo significato. In quello, per esempio, ci sono alcuni aspetti della NetArt, dell'utilizzo del codice in maniera imprevista, anche dell'errore, o anche che possono essere interessanti, ma possono essere legati al performativo, e come possono essere legati al video, per esempio, in alcuni casi. E naturalmente poi portarvi dei testi anche inglesi, di Inke Arns, che ha parlato della questione dell'atto performativo nel codice informatico, o metterlo a confronto con un testo di Florian Kramer che era sulla... Nessuno di due è veramente inglese, ma scrivono. No, una è tedesca, sono tutte e due, una olandese e l'altra. Una olandese e l'altra tedesca, però scrivono in inglese. E quindi fare un percorso di questo tipo naturalmente sfatare il mito che il femminismo sia rivendicativo o che sia legato alla questione dell'emancipazione, ma capisco benissimo, anzi sono stata d'accordo su tutte quelle che dicono io non ho bisogno di fare. Questo anche perché è vero che l'autonomia femminile ormai ormai è diventato un dato di fatto. Però c'è anche vero che è una rivoluzione che si gioca sempre, perché quindi comunque c'è sempre da ridefinirsi indipendentemente dalla questione dei diritti, tutti e tutte, diciamo, c'è sempre da ridefinirsi, quindi diciamo è un cambiamento, un divenire, diciamo, utilizzando un termine così, costante, continuo. E quindi l'utilizzo di questo pensiero secondo me può essere interessante per scardinare qualche cosa. Se non ce la fa a fare tutto quest'anno, no, infatti è enorme, infatti questa è una cosa che non so se riusciamo a farlo tutto, però lo faremo anche molto laboratoriale, quindi